GR Sport. Buongiorno, in apertura la Champions League e il Manchester United, la prima finalista dell'edizione 2007-2008. Sentiamo. È il Manchester United, la prima finalista di una Champions League che per la prima volta nella storia parlerà solo inglese. I Red Devils hanno battuto il Barcellona all'Old Trafford grazie al gol del vecchio Scholes nel primo tempo. Bellissima la conclusione del centrocampista, ma altrettanto grave l'errore di Zambrotta che riconquista palla e l'appoggia centralmente favorendo l'inserimento di Scholes. La reazione del Barça stenta ad arrivare perché prima Eto'o e poi Henry sono la brutta copia dei Notti Bomber. Anche la sfida a distanza tra i fenomeni Messi e Cristiano Ronaldo finisce senza spettacolo. Il portoghese non paga l'errore dal dischetto al Nou Camp, ma non lo riscatta nemmeno. Nella ripresa il Barcellona non punge nonostante l'assedio finale, e anzi Valdés a salvare su Tevez. Alla fine Ferguson merita la sua seconda finale di Champions, mentre Rijkaard è vicino all'addio dal Barça. Stasera l'altra semifinale tra Chelsea e Liverpool, si parte dall'1-1 dell'andata. Favoriti i Blues, che potrebbero rinnovare a Mosca il 21 maggio lo stesso testa a testa della Premier League. Cristiano Ruggiero, GR24, Il Sole 24 Ore. Intanto in Italia tutta l'attenzione calcistica è puntata sulla terz'ultima di campionato di Serie A in programma domenica, in evidenza soprattutto il derby Milan-Inter che vale la Champions per i primi e lo scudetto per i secondi, ma si lotta anche per la salvezza. Il Livorno, dopo l'esonero di Camolese e il ritorno di Orsi, a sua volta esonerato lo scorso ottobre, andrà a Bergamo per vincere e lasciare così l'ultimo posto in classifica. Sentiamo proprio Orsi. Ne manca una partita alla fine. Manca l'Atalanta, quindi non c'è stato, come se fosse arrivato a una partita dalla fine. Noi andiamo a vedere con l'Empoli, poi facciamo anche, basta questi conti, cioè dobbiamo finirla questi conti, bisogna vincere domenica, basta, non c'è stanno altre cose. Anche a Parma, penultima in classifica, si guarda la partita di domenica come all'ultima spiaggia. Se il presidente Ghirardi minaccia non ci sono più alibi, se si va in B vengono tutti all'inferno con me, l'allenatore Hector Cooper non cerca scuse o appigli. Ha accettato questa sfida, diciamo, il responsabile sono io, perché in questo momento la devo prendere io. Parliamo ancora di calcio. Pugno duro di Michel Platini in vista degli europei a giugno in Austria e Svizzera. Il presidente dell'UEFA ha chiesto un giro di vite per arginare le violenze, proponendo la sospensione delle partite in caso di incidenti di stampo razzista. Ed è cominciato a Losanna presso il Tribunale Arbitrale dello Sport l'esame del caso Pistorius. Le audizioni proseguiranno ancora stamattina, ma non è dato sapere quando verrà comunicata la decisione finale. Oscar Pistorius si è rivolto al TAS per avere la possibilità di competere alle Olimpiadi di Pechino assieme ai normodotati, nonostante corra con due protesi. In chiusura la pallanuoto si decide oggi con la sfida tra Savona e Sori, la quarta semifinalista di campionato. La vincente sfiderà il Recco, grande favorito per il titolo. L'allenatore dei Liguri Pino Porzio al microfono di Dario Ricci. Siamo arrivati prima nella regular season, abbiamo vinto già la Coppa Italia e siamo nella fase finale, nella Final Four di Coppa dei Campioni. Siamo favoriti per quello che abbiamo fatto lo scorso anno e anche per la stagione che abbiamo fatto fin qua, però lo sport ci insegna che non c'è niente di scontato, ci sono gli avversari degni come Brescia, Posillipo, e vedremo se il Savona saprà conquistare la semifinale. Ci aspetta la parte cruciale, decisiva della stagione, però stiamo bene. Ed era questa l'ultima notizia di GR Sport, vi auguriamo una buona giornata.